change. They say wait until tomorrow. Yesterday is always strange. Eccoci, siamo tornati. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio ZM. Siamo tornati per la seconda puntata di Busillis. Io sono Mattia e qui con me c'è Eki. Ciao Eki. Ciao. Allora, dalla prima puntata gloriosa che grazie al cielo è stata ascoltata, diciamo così, Parecchio. parecchio oltre le nostre aspettative, quindi grazie a chi ha dedicato del tempo alle nostre soluzioni, non soluzioni sostenibili. Sono successe diverse cose, insomma, il mondo va sempre meglio, e quindi noi continuiamo a portarvi tematiche gioiose, leggere, rilassanti. Di Leggere. cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di ecoansia. È un termine che in realtà viene utilizzato sempre di più, ma non è ancora un termine ufficiale, diciamo così. È un po' frutto dei nostri tempi, no? Quindi si riferisce a questa sensazione di impotenza che si può provare ed è legata alla consapevolezza dei disastrosi effetti del cambiamento climatico. Evviva, evviva, e questo è la nostra intro, il nostro inizio. Quindi, signori, amici, oggi parliamo di ecoansia. Dici di più, dici di più. E allora, abbiamo scelto di parlare di questa tematica perché innanzitutto è molto molto attuale. Proprio perché, come stavo dicendo, non è ancora un termine che ha trovato la sua ufficialità. Ciò non vuol dire che questa cosa, insomma, non esista, che non sia un problema, tra virgolette, problema, insomma, è brutto dire problema, che non sia un fattore di rischio reale per la salute mentale delle persone. E poi soprattutto. Non è una teoria del complotto, diciamo, perbenista. No, no, è che si stanno conducendo tantissimi studi a livello mondiale, è proprio un concetto in evoluzione, perché si sono accorti che soprattutto i giovani, insieme alle altre varie crisi esistenziali che possono avere in questo momento storico, Che già non sono poche, se mi permetti. non sono poche e sono soprattutto importanti, si sta aggiungendo quella legata ai cambiamenti climatici. E quindi sempre più persone si ritrovano in una situazione dove sentono di non avere il controllo e soprattutto percepiscono questa disparità tra quella che è la situazione attuale e tutta l'azione, tutte le cose che le persone intorno a noi stanno facendo per risolverla. Quindi l'ansia nasce proprio da questa percezione che non si sta facendo abbastanza, dalla percezione del ma perché non si sta facendo abbastanza? Non me ne rendo conto solo io? O se ne rendono conto anche gli altri, no? Secondo me è un pochino, è presente come quando sogni e vorresti urlare, o nel tuo sogno stai urlando, ma le persone intorno a te non ti sentono. Non so se ti è mai capitato. Quindi tu dici che cioè l'ansia deriva dal fatto che tu hai proprio l'impressione che nessuno intorno a te stia facendo questo ragionamento, abbia questa attenzione. È una dei sintomi, ecco, diciamo così. Ok. Sì, è proprio quello di. C'è una frustrazione che un po' è rivolta alla generazione prima, alla generazione precedente, no? A quelle che le persone che sono vissute prima di noi, ma come possono essere molto vicine a noi i nostri genitori, per esempio. Quindi c'è questa sensazione che le generazioni prima di noi non hanno fatto abbastanza e che quindi adesso tutto il peso sia in capo alle generazioni presenti, se non addirittura alle generazioni future. E con questo c'è anche poi una sensazione di frustrazione e di sentirsi traditi dai propri governi, come se le promesse insomma non venissero mantenute, ma più che le promesse non mantenute è una sensazione di rabbia che si prova, soprattutto se si pensa che la crisi climatica è stata annunciata da decenni, cioè se ne parla veramente da tantissimo tempo. Già negli anni 70 c'era stato il boom e sembrava quasi che lì il mondo già stesse per cambiare, perché già negli anni 70 era da decenni che si parlava di crisi climatica. Negli anni 70 ha avuto questa risonanza, diciamo. Risonanza, che belle parole che mi passi. Ah, vabbè, sono copywriter mica per niente. Ha avuto questa risonanza e quindi già lì si pensava che il mondo forse poteva andare avanti, no? In una maniera diversa, in una maniera più consapevole, più responsabile. E dagli anni 70 sono passati tanti decenni. 50 anni. E siamo nella situazione in cui siamo, che non è rosea, cioè inutile stare a descrivere l'ultimo rapporto del... Adesso qua ci metto un po' di dati scientifici. Dai. Che mancavano. Facciamo sempre i nostri discorsi di dati che dicono sempre: ehi, non sto dicendo una cazzata. Esatto. Fidati. No, non è che ho dati scientifici con numeri, però non so se lo sapete, insomma, è uscito l'ultimissimo report del... Ma questo lo devo pronunciare giusto? È difficile. Intergovernmental Panel on Climate Change. Insomma, wow. È l'istituzione... No, l'ho preso. Aspetta. Io adesso facciamo tutti una pausa. E che puoi ridirlo lentamente e anche in un modo un po' suadente, se riesci. Un pochino più English? Sì. Ok. Proprio un pochino come se fossi una hostess del convegno che mi stai invitando ad entrare. Ok. Ciao, benvenuti al No. Preso, io sono dentro, vai. Comunque questo è tipo... come si può tradurre? Vabbè, intergovernamentale. Ecco, in italiano mi viene un pochino più sciolto. È un'istituzione composta da vari ricercatori, scienziati, cioè veramente la creme della creme di tutti gli scienziati fanno parte di questa istituzione. E loro, sai, son quelli che ci lasciano i report e che ci dicono come va il mondo. Come va il mondo? Io un'idea ce l'ho. Un'idea ce l'abbiamo un pochino tutti, da qui poi nasce questa ansietta. Insomma, l'ultimo report che è uscito adesso proprio neanche, penso, poche settimane fa, ha proprio menzionato per la prima volta l'impatto, uno degli impatti, perché come sappiamo i cambiamenti climatici hanno conseguenze su tantissime cose, su tantissime sfere, no? E menzionano per la prima volta l'impatto che può avere su aspetta che adesso mi sono emozionata perché sto guardando quante persone ci stanno ascoltando. Tantissime, siete tantissimi, vi ringraziamo già per questo. Grazie davvero. E quindi insomma per la prima volta menziona l'impatto che i cambiamenti climatici possono avere sulla salute mentale delle persone. E non che prima non si sapesse, perché ripeto, però è da poco che se ne sta iniziando a parlare. Già tenendo conto, se posso, che in generale la salute mentale delle persone non è un tema che va per la maggiore, non è mai un tema fortissimo sul quale si parla liberamente, sul quale si è sempre sul punto, come dire, anzi molto spesso... La salute mentale o non viene neanche considerata come una salute o non viene, cioè, è uno degli aspetti più che viene lasciati più indietro, se posso, generalmente. Amen. Sì. Amen. Evviva come sempre. E sicuramente anche per questo motivo, quindi ancora non, sai, sono quelle cose lì, dici, ah, salute mentale, va bene, abbiamo il nostro buono psicologo adesso, grazie davvero, e poi non so se hai sentito, ma non ce ne saranno mai abbastanza per tutti, cioè tipo arriva per una percentuale minima di popolazione, vabbè, è una cosa allucinante. Comunque, cosa hanno detto quindi? Questo report parla delle vulnerabilità, insieme alle vulnerabilità del nostro pianeta come, diciamo, essere vivente che ne sta soffrendo, le vulnerabilità delle persone e quindi delle varie, come dire, categorie che ne risentono magari più di altre, nel senso che chi soffre di questa ansia? Ne soffrono innanzitutto i giovani. C'è uno studio che è stato pubblicato da un survey statunitense. Comunque, questo studio dice che hanno chiesto a tantissimi ragazzi dai 16 ai 25 anni, quindi quelli che noi chiamiamo i giovani, che effettivamente dovrebbero esserlo, stando... Certo. Io tra l'altro 26, quindi sono proprio appena fuori da questa categoria, mi spiace. Quindi tu, niente, sei già oltre. Posso non preoccuparmi più, diciamo? No, in realtà non è vero. Ma vedi che c'hai da preoccuparti. Ma io penso, quando ho iniziato a raccontare poco fa di questa ecoansia, ho collegato tutto a il momento in cui leggo Internazionale, che è un momento molto difficile, perché ci sono dei mesi in cui tipo... articolo sul Covid. No, non lo voglio leggere. Poi guardo altri tre articoli che parlano di guerra, di cose, dico... ma alla fine forse so già quello che c'è scritto dentro. Ci sono dei mesi in cui li leggo e dei mesi in cui invece salto un pochino. Perché il mio mondo ansia, diciamo, è chiudermi un pochino, perché sennò impazzisco. Vabbè, spero che tu ci dai una soluzione migliore della mia. Visto che l'hai tirato fuori, anticipo una cosina. Ecco. Poi ritorno al mio survey di prima con tutti i dati. No, visto che l'hai tirato fuori, questa cosa che hai detto è proprio una delle soluzioni, diciamo, è uno dei rimedi che tu puoi trovare proprio per fronteggiare un pochino, per contrastare questa ecoansia, così come penso tutte le altre ansie. E cioè quella di... cercare di evitare la sovraesposizione a tutti gli eventi catastrofici, a tutti i fattori intorno a noi, tutte le informazioni che ci arrivano ogni giorno. Perché è vero che è giusto, fa bene rimanere informati e sentirsi in qualche modo partecipi, no, di tutto, ma una sovraesposizione ti va sicuramente a creare questa sensazione di forse ancora maggiore di impotenza. E quindi è bene ogni tanto proprio staccare, fare altro. Ogni tanto andare in giro come Ted Mosby nella puntata in cui nessuno deve vedere come è finito il Super Bowl. E si mettono, tipo per andare a prendere le lette di pollo, si mette una mega occhiale da cui non vede, non sente, se non un buchino proprio. E quello è un ottimo modo, secondo me. Vorrei vedere molti di voi in giro conciati così. Facciamo partire un trend, ecco, lanciamo. Busilliani, adesso che abbiamo degli ascoltatori. Busilliani, vi piace come nome che abbiamo scelto per voi? Hashtag ovviamente. Contattateci. Tra l'altro potete sempre scriverci in chat, questo ve lo diciamo così, su Telegram, cercate la chat di Radio ZAM e potete scriverci quando volete. Ma torniamo al survey. Torniamo al survey, che per carità ci vogliono i numeri sempre. Sì, per tornare al survey, quello no, era semplicemente un dato così, che non è poco rilevante, ma fa un pochino capire di cosa stiamo parlando. E insomma, il 75% dei giovani, quando pensano al futuro, pensano che il futuro sia spaventoso. Hanno ragione? Hanno ragione, e soprattutto in relazione alla crisi climatica. Quindi la domanda era proprio... Ah, aspetta, mi sa che ce n'erano due di domande. Adesso vedi, già mi sono impappinata. Ai. Comunque no, la domanda allora erano due. La prima era se pensi che la crisi climatica sia qualcosa di cui tener conto. Un problema, ecco, era lì il collegamento. È un problema del nostro futuro, cioè è un reale pericolo? Ecco, il 75% dei giovani diceva di sì. E poi la percentuale era molto simile di persone che guardano al futuro con paura, no? Anziché che, non lo so, con speranza, con gioia, tutte le altre bellissime emozioni dell'essere umano. E quindi... Da qui i giovani sono tra le categorie più impattate, ma proprio perché sono le persone, sono coloro che vivranno poi nel futuro di cui stiamo parlando. Cioè quel futuro che ci immaginiamo un po' distopico, fatto da eventi climatici estremi, sempre meno prevedibili, sempre più violenti, no? Da siccità, da inondazioni, chi più ne ha più ne metta. Gli anni in cui succederanno queste cose sono proprio gli anni in cui le generazioni che oggi sono considerate i giovani saranno invece nel pieno della loro vita, e quindi giustamente che già diciamo non è che vengano da un periodo esattamente esaltante per loro, tutte le esperienze più o meno di vita si sono azzerate, fermate, stoppate. La prospettiva che il futuro sia questo effettivamente può dare una leggera preoccupazione. Certo. Quindi restate con noi, cari giovani, se ci state ascoltando, non temete, perché Eki ha una soluzione per voi. Soluzioni sostenibili. Sì, forse. Mettiamo un brano? Mettiamo un brano? Dai. Allora, se sei d'accordo, io inizierei... Siccome vabbè, abbiamo detto, no, soluzioni sostenibili, così ce la stiamo un po' giocando, mettendo dei pezzi tematici, no? Facendo vedere che siamo un po' acculturati, sappiamo mettere i riferimenti giusti al posto giusto. È uscito recentemente un film che si chiama Don't Look Up, che, se devo essere sincero, non è che mi sia piaciuto tantissimo, però invece ha spopolato su Netflix, ma fortunatamente nella colonna sonora c'è il buonissimo Bon Iver che... Si è prodotto in questo brano che si chiama Second Nature. Cosa vorrà dirci Bon Iver, Eki, secondo te? Ma mi viene un... non lo so, si immagina forse una seconda realtà? Può essere che faccia riferimento anche al finale del film... Non si può fare spoiler, non si però può sul fare finale del film. Hai ragione, non si può fare spoiler. Però sì, ho capito cosa intendi. Poi quando tutti i nostri ascoltatori avranno visto il film ne potremo realizzeranno. Però sì, una realtà alternativa in cui poi trovare vita per l'uomo una volta che si distrugge la natura su questo pianeta. Dici che si riferisce a una cosa del genere? Speriamo che si arrivi anche a questa realtà. Ci sentiamo subito Second Nature, Bon Iver, e torniamo tra poco. Is this our first or second nature? When's that rapture? Will there be merch? Where is mother? She was a stunner. Can we picture what might eyes have seen? Could really take the purse? Are we charged down, or are we fakers? Parade around a gated world, or just as young? We will see you next time. There'll be war in the rain, territories paid for. Always pay for all along day. E insomma, siamo tornati dopo questo brano, dai, un pochino rigenerante dopo le cattive notizie iniziali. Grazie Bon Iver di averci regalato quest'attimo così, un po' da Eden, un po' da loco ameno, ecco. Mi sentivo nella spa, cioè sembrava proprio di stare in un posto... Così, un locus amenus, è vero. È vero. Anche perché ci serviva, perché adesso è chi ha un bel po' di dati molto meno rassicuranti da raccontarvi. Sì, avevamo pensato, abbiamo detto, ma cosa facciamo? Diciamo un po' com'è la situazione del mondo oggi, o va a creare questa ecoansia nelle persone? Però noi pensiamo che dire la verità, insomma, sia sempre utile, no? Anche se... È vero, però diciamo che insomma i dati sono un po' quelli che si possono trovare in tutti i report, si possono trovare un po' ovunque, basta cercare su internet come sta la Terra e si vede. E Google vi farà una pernacchia. Sì, ci sono problemi di ridurre, cioè che viene ridotta drasticamente per esempio la biodiversità, questo è un fattore, è proprio una conseguenza che è stata provata, ci sono problemi legati alla qualità dell'aria, all'inquinamento e quindi le emissioni di CO2 che oltre poi ad andare a creare questo inquinamento che ha effetti sulla salute delle persone, e, oltre che mentale, fisica. C'è il surriscaldamento globale con tutte le sue bellissime conseguenze, l'innalzamento dei livelli dei mari, l'acidità dei mari e cos'altro, ma veramente lo scioglimento dei ghiacciai, quindi che causa tutte queste cose, oltre ad andare poi a far perdere poi degli habitat naturali magari agli animali, no? Che vivono in queste zone. E insomma le prospettive non sono rose, no? E tutto questo intensifica, va a creare dell'impatto, come dicevo prima, su alcune categorie più vulnerabili di altre, no? E quindi poi anche lì ha tutta una serie di conseguenze complesse, non facili da analizzare. In un mondo poi in cui le categorie, le ultime, sono sempre più ultime, le prime sono sempre più prime, quindi da tutti i punti di vista. Certo. La pandemia non ha che accentuato oltretutto questo divario, quindi si riflette immagino anche su quello di cui stiamo parlando. Si riflette e infatti è proprio da lì che nasce l'ingiustizia, no? L'ingiustizia climatica. E adesso poi vi dirò magari qualcosina in più anche sull'ingiustizia e sulla giustizia climatica. E, tra le categorie più vulnerabili ci sono per esempio le persone migranti. Esistono da sempre, a parte che esistono da sempre, da quando l'uomo è su questa terra, le migrazioni. Esistono però anche delle migrazioni che vengono forzate da eventi climatici disastrosi. O molto semplicemente da proprio cambiamenti climatici che quindi non permettono più alle persone che vivono in una determinata zona, in una determinata area e che sono dipendenti dall'ecosistema e dalla natura, dall'ambiente circostante per banalmente vivere, sopravvivere, quindi mangiare per esempio, per commerciare, non so, pensa per esempio a tutti i pescatori che vivono lungo le coste, no? E quindi queste sono le categorie maggiormente, cioè dove l'impatto è maggiore, ma oltre ad essere maggiore ha anche maggiori conseguenze, proprio perché si parte già da una vulnerabilità alla base, quindi qui rientrano tutte le varie... non mi piace dire categorie, voglio trovare un'altra parola per categorie, comunque per intenderci, e se si parte già quindi da situazioni socio-economiche già molto basse, ecco lì l'impatto magari è diverso, no? Rispetto a cosa possiamo invece... Sicuramente più forte, cioè esatto. Le conseguenze sono più gravi. Le conseguenze sì. Pensa per esempio alle comunità indigene, no? Per esempio quelle che vivono nella foresta amazzonica, deforestazione e altre poi, la deforestazione è una anche delle cause poi del cambiamento climatico, e, più che poi una conseguenza, ma tutta la perdita di vita, di biodiversità è sicuramente un fattore che va a incidere molto più su una comunità indigena che vive a stretto contatto con il territorio e con la natura circostante, piuttosto che io che vivo in un paese occidentale dove ho la mia elettricità, il mio, facciamo trattino, gas, e insomma tutte le comodità e comfort di un altro tipo, veramente di un'altra realtà. E quindi l'ingiustizia nasce da questo, nasce che sono proprio le persone più vulnerabili ad essere più impattate, se si può dire. Tra l'altro adesso, a breve credo ci saranno di nuovo le elezioni in Brasile, e leggevo che il popolo brasiliano, diciamo, si trova di nuovo a scegliere tra Lula e Bolsonaro, e probabilmente sceglierà Lula, ma più che altro perché non vuole più vedere distrutto sotto praticamente tutti i punti di vista la propria nazione, ma non, ecco, con quello slancio un po' più positivo che magari c'è stato in Cile, ecco, non so se hai seguito. Sì. Sì, perché anche lì Bolsonaro è uno dei tanti, purtroppo, che nega assolutamente la crisi climatica, no? Mi pare che Trump fosse un altro, se non erro, sono abbastanza sicura, ma comunque lì poi ci sarebbe tutto un club, discorso sì, da fare. Sì, sì. C'è proprio un discorso da fare. La cosa di cui bisogna, insomma, l'umanità tutta dovrebbe rendersi conto. E l'umanità tutta no, nel senso che le popolazioni più vulnerabili se ne sono già rese conto da tempo che le cause, ovviamente, chiaro, e quindi qua poi si fa anche tutto un discorso di responsabilità, responsabilità diverse tra chi è causa, tra chi causa maggiormente anche i cambiamenti climatici e chi ne sta solamente subendo le conseguenze senza magari potere di azione. Pensi che la responsabilità possa essere uno dei fattori, ad esempio, che ti fa entrare nel trip negativo dell'ecoansia? Cioè il fatto di sentirti tu responsabile negativamente di non aver fatto abbastanza, di non fare abbastanza o anche di non poter fare abbastanza? Stai prendendo tutti i punti. Che dovevo o che non dovevo? No, che dovevi. Ah, ok, che benissimo. Dovevi. Allora, così ci colleghiamo, sì, assolutamente sì. Da lì nasce il senso di colpevolezza, che è un po' forse anche il discorso che facciamo nel nostro primo episodio, quello sul veganuary, sul motivo per cui uno dovrebbe iniziare a intraprendere una scelta del genere, no? Perché un po' ti senti meglio con te stesso. Ma perché? Perché sai, perché ti rendi conto che sei una persona privilegiata, no? Mm-hmm. E insieme a questo rendersi conto che sei una persona privilegiata, ne derivano poi una serie di conseguenze in cui ti rendi conto, forse, oltre ad essere privilegiato, è anche un po' colpa mia, e inizi a chiederti, ok, allora forse c'è qualcosa che devo fare, no? E quindi sicuramente il sentirsi colpevoli è una delle cause di quest'ansia, sì, assolutamente che sì. Però potrebbe essere un motore, giocatevelo più come un motore, diciamo, per attivarvi diversamente che per affossarvi, diciamo, nel terrore. Sì, si può giocare in modo positivo, non è sempre facile, cioè come assolutamente, immagino, certo. Poi che saprai benissimo anche tu, l'ansia, sai, è una cosa proprio che non è qui, che poi... giocate in casa, signori, se parlate di ansia. Come fai a controllarla, no? Come fai a dire... Soprattutto da giovani, cioè, io non so, attacchi di panico a go-go quando ero al liceo, cioè ansiosissimo... E non c'era Covid, cioè, quindi insomma immagino che sia proprio complesso proprio a livello emotivo essere ragazzini, adolescenti, ma anche non adolescenti in questo momento storico. Sì, infatti insieme poi al senso di colpa, è tutto, in questa definizione di ecoansia rientrano tantissime emozioni, tantissime anche sensazioni, no? E insieme al senso di colpa c'è la perdita di speranza verso il futuro, quindi io non vedo più il futuro davanti a me, il futuro che vedo, che immagino, non mi piace, mi fa paura, oppure addirittura penso che non esista, nel senso, io penso che se la situazione continua ad andare così come sta andando e nessuno agisce in maniera concreta, ecco, in modo che ci sia proprio una realizzazione di un effettivo collettiva. Cambiamento che posso toccare, diciamo, per sì. tranquillizzarmi. Sì. E quindi dico, ok, non c'è questo futuro di cui si parla, il futuro che magari mi immaginavo da bambina, no? Io magari avevo già dei piani per la mia vita, non li vedrò realizzati. Ecco, quindi c'è questa proprio mancanza di speranza verso un futuro, che è una cosa tristissima, è veramente un... non lo so. Una cosa triste. È una roba che ti lascia immobile, cioè proprio sì. ti atterrisce. Sì, ti può rendere magari apatico, tipo... E infatti poi lì ci sono diversi, poi arriveremo alla fine quando parleremo anche di qualche rimedio. C'è un lieto fine, ci stai dicendo? Potrebbe esserci un lieto tanto, fine. Più o meno. E come nelle serie migliori, diciamo, il lieto fine non è troppo lieto. Aperto. Così. E il discorso è sempre lo stesso, cioè che non è ancora troppo tardi, si può pensare questo, non è ancora troppo tardi, e cioè non sono io a dirlo, ovviamente sono gli scienziati. Dell'intergovernmental loro sì. Ok, abbiamo già ricevuto un messaggio da un nostro ascoltatore che mi ha detto che, insomma, male, l'ho proprio pronunciata, mi devo un po' vergognare. Sì, però io aggiungo ai nostri ascoltatori, se criticate, poi dovete anche mandarci la vostra versione. Partecipare, assolutamente, perché altrimenti non possiamo accettare la vostra critica. Sono d'accordo, grazie. E rispondiamo grazie. Così al nostro ascoltatore, lo salutiamo in realtà. E quindi sì, lo dicono gli scienziati, il fatto è che siamo proprio arrivati a quel momento clou, cioè non è ancora troppo tardi, ma manca davvero poco. Ed è lì che dici, dai, allora cosa facciamo, no? E quindi lì che magari inizi a percepire anche questo tuo senso di immobilità e impotenza. Impotenza perché comunque i cambiamenti climatici non sono risolvibili dal singolo, no? Cioè non è che schiocchi le dita e dici ho risolto tutto. Come tutte le questioni globali, mondiali, che riguardano tutti noi, politiche, sociali, il discorso è sempre quello. E quindi uno fa quello che può, e nel fare quello che può, che può essere, appunto, poi lo vedremo magari anche in altri episodi, le varie soluzioni sostenibili che si possono trovare, e se nel fare quello che può comunque non vede poi una risposta o non vede riflesso dall'altra parte una vera presa di posizione, perché poi la questione climatica diventa una questione politica fondamentalmente, perché a chi viene questa ansia riconosce che non è che non ci sono i mezzi, non è che non ci sono le possibilità, no? di poi andare a fare quel passo oltre, è che non c'è proprio l'azione, la volontà. L'energia per mettersi in moto, diciamo. La volontà, l'energia ci sarebbe, nel senso che viene usata magari per altre cose, no? Facciamo un esempio recentissimo, tipo una guerra, no? E tu dici, ma davvero? Cioè, 2022, no? E stiamo usando... andiamo in guerra? Ok, no, perché io pensavo che il mondo fosse già messo male prima, no? Cioè, pensavo che ci fossero altre questioni da risolvere prima, per esempio i cambiamenti climatici, però... Insomma. Evidentemente qualcuno non la pensa così ancora. Per quello, cioè, il problema è proprio la volontà. E quindi quando tu ti trovi di fronte a una situazione in cui ti rendi conto che non è che non si sta facendo nulla perché non si può, perché allora lì, secondo me, saresti già forse arreso alla disperazione. Cioè, e forse lì ti vivi i tuoi ultimi anni, insomma, quello che ti resta, e dici, tanto non si può fare nulla, ormai, cosa me ne frega, me la vivo e fino a quando non ci sono più. La consapevolezza di sapere che si può fare qualcosa e non si sta facendo, e che stiamo arrivando al limite del altra parola difficile per il mio ascoltatore, dai, irreversibilità, vai. Guarda come la dico bene. Beh, dai, ecco. Questa è alla portata, direi. Sai qua. Ascoltatori, siate alla portata di irreversibilità, per piacere. E quindi è questo, ecco, quando ci si rende conto che ci si sta avvicinando a quel limite di irreversibilità, che allora ti inizia un po' a prendere questa questa, sì, questa emozione, questo, che poi, questo stato d'animo. Non è ancora stata identificata come patologia, ovviamente non rientra nell'elenco di patologie ufficiali, come dicevo prima, ma è sicuramente riconoscibile. E può darsi che magari anche qualcuno tra i nostri ascoltatori, adesso sentendo parlare di queste cose, magari riconosca che effettivamente venire esposti a notizie catastrofiche sui cambiamenti climatici ha un certo effetto sulla nostra salute mentale. Può essere che magari non la sentivate prima e ascoltandoci vi è venuta l'ecoansia. Anche questo sarebbe un successo, dici? Potrebbe essere un successo. Di consapevolezza? Sì. Sì. E, se vuoi ne parliamo adesso. E, nel senso che avere paura per il proprio futuro non è una cosa negativa. Così, esatto. Non è per forza una cosa negativa. Nel senso che la paura è molto particolare, perché può avere un effetto duplice, nel senso che da un lato può immobilizzarti, è proprio quella paura che non ti fa più vedere le cose con chiarezza e peggio ancora ti occulta quasi. Ti fa allontanare da quella che è la realtà. Quindi io piuttosto mi isolo, mi creo la mia realtà, entro nel mio mondo utopico, dove tutto è bello, dove tutto funziona. Che è quello che faccio io quando leggo Internazionale, un mese sì, un mese no, diciamo, sì. Esatto. E quindi la paura può avere questo effetto, come si può dire, isolante? Ci sarà un termine, non mi passa un termine un pochino più... Come per dire che ti... Demotivante. Non ci vuole qualcosa di meglio, hai ragione. Sì, vabbè, posso poi fare di meglio. Secondo me, vabbè, poi ci arriverà. Comunque, questo effetto che... Deterrente. Forse. Qualcosa che ti... Ti allontana dal vedere che cosa sta veramente succedendo. E, anzi, può entrare in gioco la negazione. Cioè, tu dici, no, non è vero. Non è vero che il mondo è messo così male, no, non è vero che questa è la situazione, e che è quello che si è fatto comunque per tantissimi decenni, ripeto, già dagli anni 70 e gli scienziati erano lì con le campane d'allarme e le prime risposte che arrivavano dalla comunità internazionale era ma non è vero, dai, cioè esagerati, no? Non è così grave. Quindi la paura può anche andare a creare questo non rendersi conto della realtà. E questi sono un po' i lati più oscuri, oltre a quello del mi rendo conto, ok, accetto tutto, però non sono immobile, non so proprio cosa fare. Il lato positivo invece... Lato positivo, cioè esiste? Il lato positivo lo ascoltiamo dopo la nostra seconda canzone. E sapete perché? Perché adesso ci sfoghiamo un pochino, il momento abbiamo raccolto un pochino di ansia e la sfoghiamo in un modo positivo ascoltandoci un bel pezzaccio dove si può cantare, si può gridare un pochino, è di un giovanissimo tra l'altro, credo, sì. Si chiama Zo Vivaldi, lo salutiamo. Ciao Lorenzo. Spero ci ascolterà, si stia ascoltando. E niente, un pezzo che, insomma, innanzitutto ci piace Artista emergente. L'abbiamo sentito, abbiamo subito detto va passato. Sì. E soprattutto si chiama Spero di star male. Quindi siamo in tema. Che più in tema di così non siamo si può. Siamo in tema. Esatto. Ne approfitto per dire che Zo Vivaldi si può anche votare. Perché vuole partecipare al concerto del 1° maggio. Quindi poi trovate il link nelle mie storie e potete andarlo a votare. Dai, allora, tutti su per Zo Vivaldi, Spero di star male, e noi speriamo di stare un po' meglio dopo averlo ascoltato. Parte di te, così per stare bene. Prenditi una parte di me, che ti fa respirare. chi ha sempre fame lo sai. Lo sai, si prende tutto. Mi sto chiedendo oramai, cosa stiamo aspettando? E togli quel cellulare, fatti guardare, sembra insieme che ci stiamo a fare. È una bara di plastica questo cuore, dai ti prego fallo scoppiare. Io spero di star male, perché ti giuro questo non è stare bene. Dentro di noi c'è sole, sole, sole, piove, e tutto il nostro silenzio diventa rumore. Io spero di star male, perché ti giuro questo non è stare bene. Dentro di noi c'è sole, sole, sole, piove, e tutto il nostro silenzio diventa rumore. Qualcuno parla di noi, ma non è vero niente. Siamo come gli uccelli, con le bocche aperte. Per sentirmi importante parlo di me, compro una Coca-Cola col mio nome. La tua amica adesso sta parlando di te, ma devo andare che ho finito il sale. Tu spero di star male, perché ti giuro questo non è stare bene. Dentro di noi c'è sole, sole, sole, piove, e tutto il nostro silenzio diventa rumore. Io spero di star male, perché ti giuro questo non è stare bene. Dentro di noi c'è sole, sole, sole, piove, e tutto il nostro silenzio diventa rumore. Insomma, ci siamo un po' scaldati con Zo Vivaldi e ha funzionato. Un pochino ha funzionato, sì. Dai. Sì. Dai, grande. Votiamolo per andare a sto primo maggio, eh? Dai e tutti. Allora, prima di riprendere con la nostra rush finale, in cui in teoria dobbiamo spargere positività come tanti fiorellini primaverili, vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che domani, sabato e dopodomani, qui a ZAM si festeggerà. Ci sarà la festa Antifa con tante belle discussioni, tante belle iniziative, quindi mobilitatevi, alzate il culet e venite qui a ZAM a dimostrare quanto siete Antifa, perché insomma se ci state ascoltando sicuramente lo siete. Bene, adesso dopo questa nota positiva anche oltretutto, è il momento della positività, il momento di spargere l'energia buona. E cambiare come, le cose. Come gioia di una Inside fatina. Out. Esatto, fai trilli dell'ecoansia. Bella questa. Hai visto? Questa me la segnerò per il futuro. Carnevale è finito, passato. Trilli dell'ecoansia. Ma tu lo sai che lo scorso Halloween volevo vestirmi da cambiamenti climatici. Perché fanno paura. Dimmi come, cioè ti prego. Volevo allora fare tipo con un cartone, oppure trovavo un globo, insomma qualcosa che facesse la terra. E poi con del cartone sempre, perché questi sono i materiali che ho a disposizione, disegnare delle fiamme tutto intorno, magari con un cerchio, sai, tipo gli hulop, quelle cose lì. E insomma fare il mondo a fuoco. E poi cos'è andato storto? Poi cos'è andato storto? Che alla fine non avevo poco tempo, come sempre, mi sono organizzata all'ultimo. E quindi anche quest'anno mi sono vestita da infermiera sexy. No. Ho fatto il decreto. Il decreto. Anche questo ha un che di Ted Mosbiano, se non mi sbaglio. Mi sono vestita da decreto e c'era la mia coinquilina che salutiamo. Ciao Paola. Ciao Paola. Lei aveva sì il costumino quello da diavoletta. E allora abbiamo fatto il decreto e le tenebre, che non so se hai presente la cheat. No. No? Io non opero con il favore delle tenebre di Conte. Vabbè, niente, i nostri ascoltatori spiegano. Ah no, forse ho capito, forse ho capito, forse ho capito. Comunque, piccolo, piccolo, insomma, piccolo excursus. Così, un po' di folklore. Per tornare alla nostra paura, come agente, diciamo, di cambiamento, come agente positivo, che cosa possiamo dire? Che forse delle volte è giusto avere paura, o meglio, è giusto. Ci può aiutare, perché tu prova a immaginarti un qualsiasi scenario in cui hai paura e reagisci. Scappi o ti metti a urlare, qualsiasi cosa. La paura, quando ti crea una reazione, come dicevamo prima che può crearti la reazione dell'indifferenza, del no, io non ci credo, no, non lo vedo, può invece spingerti a... nella direzione giusta? Diciamo di sì. Nella direzione più forse... Se non altro in una direzione attiva. Sì, in una direzione attiva, ed esattamente questo. Uno dei rimedi che noi possiamo trovare all'ecoansia, se pensiamo di soffrirne, è proprio quello di prendere, come si dice, partecipare, diventare attivi. Si può fare questo con l'attivismo, può essere un attivismo che si limita magari ai social, può essere un attivismo del mi unisco a un gruppo di altri attivisti, no? Per i cambiamenti climatici, partecipo, creo progetti, ne parlo in un podcast su Radio ZAM il venerdì sera, ecco, qualsiasi pugnetto, cosa. Pugnetto per noi, dai. Quindi il partecipare, prendere azione, quindi trasformare questa paura in un'azione. Questa può essere una prima conseguenza positiva che la paura può avere su di noi. E diciamo che un'azione generalmente è sempre, cioè quando comunque generata da un movimento interno è sempre una cosa positiva, ecco. L'importante è mettersi in moto. Intanto Eki qui stava morendo, ma invece no, è ancora tra sono noi. Ancora qua, ancora la voce. Esatto, esatto. E una seconda soluzione potrebbe essere quella, sempre un po' legata anche al prendere azione. Prendere azione mi sa tanto di inglese, vabbè, comunque. Prendere atto, diciamo, sì, un po'. E, insomma, take action. Ecco, quella cosa lì. Sì, era proprio inglese, vabbè, comunque. Vabbè, ma insomma, ormai qui c'è, cioè, intergovernamental. Pure noi siamo international. E quindi la seconda cosa che si può fare è quella di iniziare ad informarsi un pochino. Informarsi su che cosa? Sulle notizie positive, no? Perché come esistono tante, tantissime, ne siamo bombardati, notizie terribili, in realtà se si va a scavare o se si cerca in altri posti esistono anche notizie positive. Sono più difficili da trovare, lo confermi? Cioè sono delle cose che comunque devi scavare sotto una superficie di altre notizie, sì. Quindi cioè comunque questo movimento è proprio, le cose positive ci sono, vanno cercate. Secondo me sì, nel senso che un po' anche quando esce una notizia positiva, tipo io una cosa che ho provato di recente, le Nazioni Unite, il loro dipartimento, quello sull'ambiente, ha approvato una risoluzione, adesso non sto ad andare nei dettagli, comunque si pensa di vietare l'utilizzo proprio della plastica come agente che ha funzioni di pollution, non mi viene, insomma che ti... vabbè, oggi non mi vengono. Comunque, una gente... Oggi un po' English. Oggi un po' prendetela così. Così. Vabbè, ecco, cioè, questa era una bella notizia. Cioè, è tuttora una bella notizia. Io però quando l'ho vista arrivare, insomma, che si pensa di fare questo ban per la plastic pollution, inquinamento, ecco, agente inquinante, ora mi è uscito. Non è che ho reagito tipo saltando di gioia, era tipo un era ora, cioè, capito? Quindi un po' c'è anche questa cosa del quando vedi una notizia positiva dici vabbè dai, sì, però è un po' come però... quando ti danno la pacca sulla spalla perché hai preso, che ne so, un bel voto a scuola e la mamma ti dice, vabbè, era il tuo dovere, cioè non è che adesso dobbiamo festeggiare. Triste. Non è che adesso bisogna festeggiare ogni, ecco, quindi c'è un po' quella sensazione che magari è ti fa mantenere un po' i piedi per terra, perché non è che adesso abbiamo fatto magari una legge, no, per vietare la plastica e siamo tutti salvi, siamo tutti felici e contenti. Forse anche un po' il tuo modo di andare avanti nella, in questa lotta, andare avanti in questa tua sì perché alla fine, vabbè, comunque se non almeno vedere obiettivi raggiunti, intravedere comunque appunto la speranza di poter andare avanti a combattere. Sì, ci sono per esempio di questa cosa le notizie positive, se ne sono accorti proprio quando si iniziava a parlare di ecoansia, perché forse essere esposti a troppe notizie del genere non fa bene a tutti. E quindi poi trasformare queste in emozioni positive non è per forza un essere naif, non voler vedere che in realtà le cose vanno male, eccetera. Ma è una necessità dell'essere umano anche di immaginarsi un futuro, no? E quindi la notizia positiva ti aiuta a vedere... In generale il benessere comunque è una cosa a cui puntare... Certo. Una necessità anche quella. Certo, e quindi sì, tu leggi una notizia positiva e immediatamente ti senti un attimo meglio. E quindi per esempio ci sono delle varie influencer attiviste per l'ambiente che hanno iniziato, per esempio c'è questa ragazza che seguo che lei ogni lunedì posta una carrellata di notizie positive sul clima. Ecco, questo volevo chiederti, dove le troviamo allora le buone, le notizie positive? Cioè, dacci dei consigli, tu dove le trovi? E io da lei, onestamente. Io seguo questa ragazza, si chiama Eco with Nico, tutto attaccato su Instagram. E fanno proprio, mi pare si chiami Good News Monday, non sono sicura. Comunque ogni lunedì, Positive News, adesso non ricordo, ogni lunedì in collaborazione con qualcun altro, proprio creano questo post dove tu puoi andare a vedere in quella settimana tutte le cose invece positive che sono successe, no? E questo sicuramente fa tantissimo, perché dici, ah, allora non c'è tutta questa immobilità di cui sento, no? Cioè di questa immobilità che io percepisco. Ma perché? Perché le notizie positive spesso vengono magari nascoste, perché magari quelle importanti, quelle negative, oltre a generare più audience, magari ti generano anche ti sembrano quasi più urgenti da dire rispetto a quelle positive, ma invece è un focus che bisognerebbe un pochino dovrebbero andare di pari passo, ecco. Mm-hmm. Qualche notizia negativa, qualche notizia positiva, per dire ok, i problemi ci sono, stiamo trovando anche le soluzioni. Quindi la soluzione, fatevi un pochino anche di roba buona, cioè trovate il giusto, il positivo nelle vostre sconfitte quotidiane globali e fate sì che insomma abbiano la stessa importanza, lo stesso gradino di quelle negative. Esatto, un pizzico di ottimismo che non fa male, aiuta proprio a lasciare andare un pochino di questa responsabilità che sentiamo sulle nostre spalle, questo stress. E poi invece un'altra soluzione che si può trovare a questa ecoansia che possiamo sentire e di cui possiamo sentirci proprio travolti, dalla quale possiamo sentirci travolti, è quello di riprendere in qualche modo, in qualsiasi modo, il contatto con la natura. Banalmente esco, faccio una passeggiata, sento il calore del sole sulla mia pelle, le foglie degli alberi mi fanno ombra, annuso un fiore, cioè può essere veramente una e cosa... E poi signori, ci siamo quasi, o no? La primavera? Sì, è il momento giusto. Sì, beh, puoi farlo in realtà, sì, insomma... Sì, è vero, puoi farlo sempre... Vado a sciare, per dirti, no? Una cosa così... La mia era una chiosa un po' alla Disney, diciamo, no? Un po' primavera coco, primavera fiorita. Bello, ti ci immagino. Sì, vero. Poi ci mandi la foto. Ecco, tu va in bene, mezzo va ai bene. Fiori. Con questa chiusura da figli dei fiori, ecco. Però sì, è perché è positivo? Perché innanzitutto stare a contatto con la natura ha dei benefici, cioè su questo proprio non c'è dubbio. Questo verissimo, sono il primo a garantirvelo. Sì. E quindi oltre proprio agli effetti positivi che può avere sulla tua mente, no? Che rilassa, ti rilassa, ti calma. E secondo me aiuta un pochino anche a rendersi conto che ok, comunque questa natura intorno a me è ancora qui, posso ancora respirarne l'aria, posso ancora godermela. E forse cioè proprio ti fa emergere ancora di più dentro di te la convinzione che sia giusto proteggerla, no? Quindi passare tanto tempo nella natura, e anche questo è stato provato da una ricerca scientifica, passare tanto tempo nella natura ti fa in modo che cresca in te una maggiore apprensione, una maggiore cura nei confronti della natura. Questa è una cosa bellissima, cioè vuol dire che tu più tempo, una sorta di empatia anche, empatia, nella, siamo sempre qui, empatia, altra, è un'emozione così, è bella ed è fondamentale, quindi tu inizi ad empatizzare, è che può essere arma, diciamo, doppio taglio sempre per la sofferenza che ti causa. Certo. Ma anche lì la il dolore, che è come la paura, può avere poi l'effetto positivo. Però sì, sono d'accordo. Se vuoi stare a guardare il lato positivo dell'empatia, c'è questo. Tu entri in contatto con la natura e dici, ok, questa cosa è bella, questa cosa mi fa bene. Ne vedi forse il senso proprio anche più grande di te, no? Cioè capisci? Spirituale quasi. Sì, no, non farmi iniziare perché se non finisco fare più. Però e sì. Quindi preserviamola, dici? Preserviamola. Quindi ti viene proprio naturale. Passi una giornata, non lo so, vicino a un lago e dici, ok, io qua magari voglio tornarci, no? Voglio che questo lago rimanga qui la prossima volta che torno. Voglio che rimanga qui non solo per me, nella mia vita. Voglio che rimanga qui per i miei figli, se dovessi mai averne, per i figli dei figli, cioè per i bambini del futuro, per le future generazioni. E quindi poi da qui nasce tutto il discorso a cui adesso hanno detto che saremmo tornati, di giustizia ambientale. Quindi si tratta di proteggere il pianeta non solo per noi nel presente, ma anche per garantire questa continuità nel tempo alle generazioni future. A questo punto, secondo me, il tema giustizia e ingiustizia ambientale potremmo tenercelo per un'altra puntatina ad hoc. Che dici? Sono d'accordo, sì. E magari per questa volta ci salutiamo qui. Speriamo, come dire, di aver risolto un pochino il dramma che abbiamo posto all'inizio. E, come al solito, di avervi dato qualche spunto sostenibile, soluzione forse no. Però, insomma, noi abbiamo provato a fare del nostro meglio. E in chiusura volevamo farvi sentire questo pezzo di Nicolo Fabi che si chiama Prima della Tempesta, che fa parte di un album, Tradizione e Tradimento, che parla molto di natura, di migrazioni, di un po' di cose che abbiamo toccato oggi. Quindi secondo me chiude proprio il cerchio questo brano. E cosa dice sostanzialmente? Che alla fine è un po' lui a decidere il mondo, sempre. Quindi è bene anche curarlo. Vabbè, con questo finale proprio Alberto Angela, positive, morale. Me ne è venuta in mente un'altra descrizione. Vai. Velocissima. Fare yoga. E questa ve la lasciamo così. Questa ve la lasciamo così. Grazie di averci ascoltato. Riflettete sullo yoga. Venite a ZAM ad essere antifascisti. E ci sentiamo alla prossima puntata di Busillis. A presto. Ciao ciao. Torneranno gli animali ad occupare il loro posto, e gli umani nelle grotte a disegnare sopra i muri, e il profeta con la barba salirà sulla montagna, e in regalo avrà una mappa per scappare sulla luna. Degli onori ad ogni costo, degli allori sbandierati a sfregio in faccia agli indifesi, e i mercanti come giusto affogheranno in un pantano di acqua truffa ed oro fuso dalla loro stessa mano. E così sia, disse l'uomo alla finestra guardando il cielo della tempesta. Non c'è storia, non mi provocare, disse il mare prima della tempesta. Cercheranno i miliardari di sfuggire al campo santo, ma uno scherzo del destino li accomuna i mendicanti, cominciamo ad insegnare la gentilezza nelle scuole, che non è dote da educando, ma virtù da cavaliere, e così sia. Disse l'uomo alla sua festa, mangiate tutti.